Siete veramente belli, belli, belli. Belli, belli, belli. Possiamo accomodare, so che non ci vogliamo sedere, che vogliamo stare in piedi, che vogliamo stare. Possiamo fare insieme un grande applauso al nostro gruppo Lode che ci ha guidato in un tempo straordinario. Grazie ragazzi. Io voglio ringraziare, prima di tutto voglio ringraziare il gruppo Lode, il Team Power, e vogliamo fare un grande applauso al Team Power per averci guidato per 3 mesi in incontri bellissimi anche online. Grazie ragazzi, confesso che la settimana scorsa quando ho visto la band ho pianto nel mio soggiorno. Quanti con me? Quanti sono emozionati e potrebbero piangere da un momento all'altro oggi? Io, ci sono anche uomini, meno male, così veramente poi mi dicono che le donne sono soggette insomma ai propri periodi, no, non è così, sono proprio emozionata e felice di essere qui con voi. Lasciatemi anche ringraziare in maniera particolare, credo che lo dobbiamo fare a nome di tutti quanti noi, il nostro pastore per aver guidato la Chiesa per 3 mesi in una guida sicura, stabile, in messaggi straordinari. Vogliamo fare a lui un grande applauso? Grazie pastore, grazie per i messaggi scomodi che hai predicato. Abbiamo amato, abbiamo preso appunti dal vivo, sul quaderno e penna e carta. Il messaggio più antipatico che ho sentito predicare negli scorsi 3 mesi è stato il messaggio sulla sofferenza, vero? Quanti hanno detto, ma perché sta predicando questo messaggio? Pastore, grazie che hai predicato quel messaggio, che non hai scelto le parti più comode, ma hai scelto l'interezza del Vangelo, anche se ci è piaciuto di più, Dio è con noi della settimana scorsa, vero? Con sincerità. Io sono onorata di poter parlare oggi, di poter predicare oggi. Questo messaggio è nel mio cuore da un paio di settimane e vi assicuro che quello che il Signore sta parlando, quello di cui il Signore sta parlando a me. Quindi prendiamolo come se stiamo seduti tutti quanti nel soggiorno di casa mia. No, basta soggiorno per gli incontri, tutti in chiesa e parliamo di questo. Voglio parlare di un tema che è un po', forse è l'unica cosa, una delle uniche cose che ci ha lasciato veramente il coronavirus. Che cosa ci ha lasciato il coronavirus? I guanti, le mascherine, l'antibatterico, ci ha lasciato la distanza, ci ha lasciato l'ansia, la paura di morire, la paura di non rivedere più i nostri cari, ci ha lasciato la preoccupazione, ci ha lasciato forse senza lavoro, ci ha lasciato con dei guadagni diversi, ci ha lasciato con degli hashtag, no? L'hashtag andrà tutto bene, io ho più usato andrà tutto stretto, e in effetti è l'unico hashtag che poi è rimasto davvero. C'era anche l'hashtag come che era saremo più forti e torneremo ad abbracciarci. Non so se sono vere queste cose, però quello che veramente ci ha lasciato, almeno ad oggi, il coronavirus, questo organismo invisibile, piccolissimo, a forma di corona, è la consapevolezza della vulnerabilità. Non so se ve ne siete accorti, ma ad un certo punto, dall'avere tutti i nostri programmi fatti, dall'avere le nostre belle vite, dall'essere felici di aver costruito tutto, ad un certo punto tutto l'intero globo si è dovuto bloccare, si è dovuto fermare per qualcosa. E non è che abbiamo scoperto, cioè non è che ci ha regalato la vulnerabilità, noi siamo vulnerabili, noi siamo sempre stati vulnerabili, ma una cosa come una pandemia ci ha dato la consapevolezza di essere vulnerabili, ci ha dato la consapevolezza che potevamo morire da un momento all'altro, che le nostre vite potevano cambiare drasticamente, e questa cosa ci ha fatto sentire paurosamente deboli, paurosamente vulnerabili. Voglio parlare di questo oggi, quindi sono qui non per dire Chiesa, wow, alla grande, no, Chiesa, noi dobbiamo continuare a portare la visione, la chiamata, il mandato che Dio ha dato alla nostra Chiesa, ma in una maniera autentica, in una maniera, lasciatemelo dire oggi, senza maschere, non mascherine, ma senza maschere. Vogliamo leggere insieme una storia che ci parla di vulnerabilità. Leggiamola insieme dallo schermo. Io spero che possiamo mantenerci l'abitudine del prendere appunti, come ci ha insegnato il pastore, carta e penna, perché per me è stato molto utile. Quindi se vuoi continuare a farlo, fallo pure. Luca, capitolo 19, verso 1. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città, e un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, poiché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti, salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. E quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo venire a fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. E veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: ascolta ora, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Che storia incredibile. Questa è una storia di vulnerabilità. Che cosa significa vulnerabilità? Cerchiamo una definizione. Dal vocabolario significa che può essere ferito, che espone il fianco e che può essere attaccato, leso o danneggiato, riferito a persone o a individui singoli o a gruppi di individui, alla Chiesa. Una vulnerabilità è una falla. Un punto in cui possiamo essere colpiti, che può consentire ad un attaccante di compromettere un sistema, cioè di ridurre il livello di protezione fornito da tale sistema. Se pensi al coronavirus, è entrato e ha attaccato il sistema. Ad un certo punto abbiamo temuto per la Chiesa, ma la Chiesa non si è fermata, giusto? La Chiesa ha continuato a manifestare la sua gloria in modi diversi su questa terra, straordinario. Ma la scoperta della vulnerabilità ci rende sinceri. Sai come funziona la vulnerabilità? La vulnerabilità non è che dici: ma fammi fare questa esperienza così divento vulnerabile. Nessuno di noi fa o vuole fare le esperienze per essere vulnerabili. È piuttosto che mentre camminiamo ci accorgiamo che siamo diventati vulnerabili. Giusto? Sì? Ci siete, Chiesa? Siccome io non vedo la vostra faccia bellissima, muovete un po' con la testa, così altrimenti temo che voi stiate dormendo e questo è l'incontro della mattina prestissimo. Per qualcuno di noi forse era il tempo della colazione, giusto? Ma siamo qui, quindi wake up, come si dice in inglese, svegliamoci. Quindi fatemi vedere. Fantastici, siete svegli, siete svegli. Non è che proprio scegliamo di essere vulnerabili, giusto? C'è qualcuno in mezzo a noi che dice: no, io proprio scelgo di essere vulnerabile, di entrare in un territorio che mi rende sensibile. E più che scopri che sei sensibile, che sei vulnerabile. Però la vulnerabilità è il cuore dell'autenticità. Quando sei vulnerabile, quando diventi vulnerabile, diventi veramente te stesso. Quando noi attingiamo la vulnerabilità apre al cuore vero, a quello per cui veramente batte il tuo cuore, alla tua passione più sincera, a chi sei veramente, alle tue paure anche, ma anche, pensa un po', alla creatività. Abbiamo secoli di arte basata sulla vulnerabilità degli artisti, ma pensa a te. Dio vuole farci essere più vulnerabili, Dio vuole prendere dalla nostra vulnerabilità la gioia vera, la passione vera, l'autenticità, la sincerità, le relazioni sane, l'essere trasparenti, l'essere senza maschera. Questo è il frutto della vulnerabilità. La vulnerabilità ti aiuta a conoscerti. Ti sei mai reso conto di questo? Quando conosci il tuo limite, conosci veramente chi sei. E mentre ti conosci, conosci anche gli altri. Perché la vulnerabilità ti fa gridare aiuto, ti fa chiedere aiuto. E guarda un po', la vulnerabilità potrebbe portarti a chiedere aiuto a Dio. A Dio. Perché quando ci svestiamo delle nostre sicurezze, del nostro essere certi della nostra vita, allora è quel momento che diventa un momento sensibile, un momento vulnerabile, perché la presenza di Dio possa entrare nella nostra vita. Io credo che tanti di noi possono dire questo oggi, ma anche chi ci segue da casa. Io so che ci stanno seguendo persone da casa stamattina che si sentono vulnerabili. E io voglio ricordarci che la vulnerabilità ha il potere di portarci più vicino a Cristo. Amen? Ti piace? La vulnerabilità ci fa gridare ho bisogno di aiuto. La vulnerabilità ci fa cambiare. Abbiamo letto la storia di Zaccheo, ma abbiamo conosciuto e conosciamo anche la storia del giovane ricco. Entrambi vulnerabili. Pensiamoci un attimo, vulnerabili sullo stesso punto. Eppure di Zaccheo troviamo di un uomo di cui Gesù ha detto oggi la salvezza è entrata a casa sua e a differenza del giovane ricco non sappiamo neanche come si chiami. Di Zaccheo sappiamo tutto e del giovane ricco sappiamo che ha fallito la sua prova della vulnerabilità. Essere vulnerabili è un pregio e questo ce lo dicono tantissimi personaggi della parola di Dio. Pensaci. Forse dall'Antico al Nuovo Testamento. Abbiamo proprio l'inno alla vulnerabilità, l'inno alla debolezza che porta alla grandiosità di Dio a manifestarsi. E voglio farvi vedere uno schema, perché noi siamo in un mondo in cui la vulnerabilità è rifiutata. I social vogliono che noi siamo perfetti, ineccepibili, belli fuori, felici dentro, case perfette, vite perfette, magri, belli, alti, tutti pieni di successo. Ma pensaci un po', non è solamente il social che chiede questo, ma non è anche quello che noi chiediamo l'uno all'altro a volte. Quando ci vediamo un po' deboli, diciamo, oh, ma guarda, guarda quello, ma proprio ho un brutto periodo ora. O siamo felici di vedere gli altri che stanno bene. Bene, dovremmo invertire le regole che ci vengono propinate da questa cultura per dire oh, questa persona sta piangendo, questa persona è in ginocchio. Wow, questa persona ha capito tutto. Non sta male. No, questa persona ha capito tutto. Voglio farvi vedere uno schema che degli psicologi hanno creato, uno in particolar modo, per farci comprendere il nostro livello di conoscenza di vulnerabilità. Ve lo faccio vedere. Qualcuno di voi forse lo conosce. Questa si chiama la finestra di Gioari. Viene usata, chi la conosce di voi? Alzi la mano. Alcuni di voi. Dov'è Domenico? Domenico, per forza, la conosci, la devi aver imparata a memoria. Bravo. Questo è uno studioso, uno psicologo, che ha creato questa finestra. Questa finestra cosa ci dice? Che ci sono delle aree di noi che sono conosciute, che sono delle aree che noi conosciamo di noi stessi. Vedete? La prima parte è di noi stessi e l'altra parte sono gli altri. Questo è uno schema che viene usato anche nel commercio per manipolare il commercio e quindi è uno schema che ci manipola, ma anche nella comunicazione. Che cosa dice la finestra di Gioari? Dice che ci sono delle parti di noi che sono aperte, che sono visibili, che Gioari chiama l'arena, che è quella che state vedendo ora di me, quella che io vedo di voi. Cioè la parte che io vedo di me stessa e che gli altri vedono di me. Quella è la parte nota ed è la parte conosciuta, è quella che costruiamo e quella che facciamo al meglio. Ma poi ci sono, andate al quadrante accanto, delle parti che io non vedo di me, ma che gli altri vedono di me. È qui che comincia la mia vulnerabilità, perché la mia sicurezza comincia a cadere quando gli altri vedono di me delle cose che io non riesco a vedere di me. Ancora, andiamo sotto. Ci sono delle cose di me che gli altri non conosceranno mai. E questa è la mia parte segreta, è la mia parte privata, è la parte che nessuno a cui non do accesso, perché la voglio tenere per me. E sono le parti più sensibili, le parti di cui a volte ci vergogniamo, le parti che sono delicate. Ma questa parte mi interessa un sacco. C'è una parte ignota. È una parte, gli studiosi dicono, che c'è una parte di me che io non conosco, e c'è una parte di me che neanche gli altri conosceranno mai. Questa è un'area in cui Dio ha pieno controllo. Questa è un'area di massima vulnerabilità. È nascosta a me, è nascosta agli altri, ma davanti a Dio, che non possiamo nasconderci, Lui la vede. E Lui vuole entrare lì. È in questa vulnerabilità estrema che Dio vuole entrare. Torniamo a Zaccheo. Ce la ricordiamo la parte dell'arena di Zaccheo, no? Quella che gli altri conoscevano e quella che lui conosceva. La Bibbia ci descrive Zaccheo così. C'era un uomo di nome Zaccheo che era capo dei pubblicani, ricco e basso, giusto? Queste tre aree erano tre aree di vulnerabilità per Zaccheo, ma erano aree che tutti conoscevano. Era un capo dei pubblicani, uguale mafioso, cioè lui era il leader di coloro che andavano a recuperare le tasse dagli ebrei, ma non recuperavano solo quello che era il dazio romano, quelle che erano le tasse dei romani, ma recuperavano un'altra parte, una mazzetta, per loro e per tutto il sistema. Quindi lui non era solo ricco, era ricco, ricco, ricco. Ed essere una cosa così, nel momento in cui Gesù è venuto sulla terra, quando c'era comunque crisi, quando il popolo non era allo stesso livello, non era una cosa bella. Era più che altro segno di essere mafiosi, di essere criminali, di non essere giusti, di aver abdicato dai giusti principi. Era ricco ed era basso. Non so quanti di voi si sentono denigrati per il loro aspetto fisico. Ora, tolgo l'altezza perché poi mi spreco sulle battute su quest'area, come sapete, ma non fa niente, lasciamola stare. Giusto, pastore? Lasciamo questa battuta. Però quanti di noi si sentono denigrati per l'aspetto fisico? Non sei bello, non sei magro, non hai capelli lisci, non hai capelli ricci. Tutti gli altri ci guardano lì. Ma la Bibbia ci ha insegnato che Gesù ha guardato ad una vulnerabilità che nessun altro ha visto. La Bibbia ci ha insegnato a vedere come Gesù guardava. E quello che ci viene detto di Zaccheo è questo, che è stato pronto a correre, che è salito su un albero per vedere Gesù e ha accolto Gesù con gioia. Questa è la vulnerabilità. Questa è l'area sensibile che Gesù ha visto in Zaccheo, che gli altri non vedevano, ma che Gesù ci insegna a vedere attraverso la parola di Dio, come una telecamera che fa lo zoom su queste caratteristiche sue. Nella sua carta d'identità, la Bibbia ci ha insegnato a non mettere solo capo dei pubblicani, ricco e basso, ma ci insegna anche ora a dire, oh aspetta, Zaccheo era anche disponibile, era anche veloce, era anche pronto. Wow! Che bello, incredibile. E la parte più bella di Zaccheo è che ha accolto Gesù non con preoccupazione, ma tu ci pensi che la tua vita è bruttissima, che vivi nell'imbroglio, che sei un criminale e che tutte le tue ricchezze, oltre che portartele addosso, io me lo immagino un po' come un mafioncello, non so, di quelli che si mettono le catene d'oro, l'orologio enorme, tutti questi vestiti un po' fighi, questa macchina all'ultimo grido, il cellulare enorme, non so, gli occhiali da sole, insomma. Quindi me lo vedo un po' che si mette i diamanti sui denti, sai, queste cose qui, un po' da rap americano, straricco. È un'altra maniera che hai per mostrare la tua ricchezza, dov'è? È a casa tua. Beh, i film, non so, Gomorra o cose del genere, ci hanno insegnato che i napoletani sfarzo moltissimo, no? A casa, divani d'oro, non so, i cani di ceramica si usano di nuovo, anni 80 che ritorna, il vintage, speriamo non troppo. E quindi Zaccheo era questo in casa. E tu che sei un imbroglione, tu che sei un mafioso e che il re dei re entra e ti dice voglio venire a mangiare a casa tua, beh, la prima cosa che pensi è mamma mia, come faccio a nascondere le foto delle donne nude che ho a casa? Come faccio a nascondere tutte le mie concubine? Come faccio a nascondere tutti i miei vasi d'oro rubati a quella famiglia? Come farò a fare questo? E invece Zaccheo riceve la notizia dell'autoinvito con gioia. Ora, non voglio mettere delle parole in bocca alla Bibbia, ma sapete un po' come mi sembra? Come quando tu hai un fardello pesante, che sì, ce l'hai perché è la tua vita, perché l'hai avuta, perché è la tua esperienza, perché è la tua storia, e per quanto ti piaccia o gli altri pensano che ti piaccia, qualcuno arriva e dice, dammelo. E tu, per quanto sei ancorato a quello, per quanto hai costruito la tua vita su quello, dici, ah, finalmente mi hanno tolto un peso. No, vi sembra un po' questo? Zaccheo riceve Gesù con gioia della serie, oh finalmente, basta, non ce la facevo più. È l'esatta gioia di un peccatore che si converte. È la gioia incredibile del peso del peccato che si cambia in perdono, che cambia in speranza, che cambia in una nuova vita. Questa è la gioia di Zaccheo. La vulnerabilità di Zaccheo è diventata una prospettiva di gioia, un territorio per cui Gesù ha portato gioia nella sua vita. E questa gioia ha portato subito ad un cambiamento, ha portato ad un ravvedimento e ha detto subito: Signore, se ho rubato qualcosa, lo sai che hai rubato, cioè non è che metti il se, vabbè, più morbido, se ho rubato qualcosa, com'è che dice? Io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. Cioè non sto andando secondo la legge ebraica, sto andando secondo la legge romana, cioè abbondantemente di più di quello che dovrei. E sapete, non è che Gesù... Ora, torno un attimo indietro. Gesù gli ha detto, venga a mangiare a casa tua. In realtà, quando si andava a mangiare, non è proprio il tempo del pranzo, anche pugliese, che dura 4 ore. Ma in genere è un tempo molto lungo, molto spesso proprio ci si fermava come comitiva, come carovana a casa. E quindi molto probabilmente Gesù ha speso molto tempo con Zaccheo. Ma questo non è stato detto dopo che Gesù ha passato molto tempo con Zaccheo. E tutti noi possiamo pensare, beh dai, se passi un giorno intero con Gesù, chiaro, chi vorrebbe passare un giorno intero con Gesù e avere tutta la vita cambiata? Beh, penso che anche io forse cambierei tutto quanto ancora. Ma Zaccheo dice questo appena Gesù gli dice cosa? Zaccheo, metti a bollire l'acqua perché venga a mangiare a casa tua oggi. Istantaneamente la prontezza di quest'uomo ha fatto della sua vulnerabilità un posto di gloria di Dio. Ha fatto del suo essere delicato, della sua storia compromessa, del suo nascondiglio, è diventato un punto di forza per lui. Che bello, che bello. Io voglio essere così. E tutto quanto da una sola frase. Zaccheo, metti l'acqua a bollire, perché oggi vengo a casa tua. La nostra casa è il posto in cui siamo senza maschera, anche senza mascherine. La nostra casa, non so per voi cos'è stata, ma la pandemia ci ha insegnato che la nostra casa è diventata a cucina di chef stellati, vero? Vi ho visti cucinare, quindi avete fatto dei piattoni allucinanti, la farina 00 l'avete fatta finire dappertutto, e anche il lievito, cioè proprio ci siamo dati da fare. Poi è diventata palestra, perché chiaramente dopo che mangiavamo la farina 00 volevamo smaltirla, dolci. La nostra casa è diventata ospedale, perché se ti sentivi male non volevi andare da qualche parte, vero? Quindi dovevi curarti lì. La nostra casa è diventato laboratorio analisi, perché lì analizzavamo tutti i virus che avevamo e diventavamo più bravi dei virologi a dire se stavano facendo bene. La nostra casa è diventato il governo, la Camera dei Deputati. La nostra casa è diventato il posto in cui ci siamo sentiti protetti. Andavamo tutti bardati a fare la spesa e poi tornavamo a casa e non vedevamo l'ora di toglierci tutto, di lavarci, di disinfettarci. Perché? Perché ci sentivamo protetti a casa. Quando Gesù entra in questa casa. Gesù entra in una casa in cui siamo noi stessi, in cui siamo senza maschere, in cui c'è la nostra famiglia, in cui siamo veri, in cui siamo trasparenti, in cui siamo vulnerabili. Hai mai invitato a casa qualcuno senza sapere che stava per venire? Beh, il bagno non è che proprio, o il letto non è che proprio, o il pavimento non è che proprio. Ecco, quello ci fa diventare vulnerabili. Vulnerabili a quello che gli altri diranno di noi. Ma questo che sta per venire a casa nostra, il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Davanti a Lui non c'è giudizio. Quando Lui cammina, davanti a Lui non c'è giudizio. Davanti a Lui c'è grazia. Lui non deve neanche parlare, grazia fluisce da Lui. È lo Spirito Santo che è pienamente in Lui, che convince ognuno di noi di peccato, di giustizia e di giudizio. È lo Spirito Santo che ha convinto Zaccheo nel dire: oh, devo fare tutto quanto diverso, devo cambiare tutto. E la sua vulnerabilità è diventato un posto per rendere Gesù famoso. Voglio dirvi questo. Zaccheo ha detto a Gesù: do metà di quello che ho a chi ne ha bisogno. E se poi ho rubato qualcosa a qualcuno, gli do il quadruplo. Quindi, dopo questo weekend nel centro benessere con Gesù, io immagino che Zaccheo, che la vita di Zaccheo sia andata un po' così. Toc toc. Buongiorno, che vuole questo? Questo è quello che ci ha rubato i soldi. Vattene, bugiardo, malfattore. Ok, scusate. Toc toc. Buongiorno, salve, sono Zacchio. Lo sappiamo chi sei, che vuoi? Voglio darvi indietro quello che ho rubato. Veramente? Allora mi devi dare tutto? Sì, tieni. E lo sto facendo perché Gesù è entrato a casa mia e ho capito che quello che facevo non lo posso fare più. Toc toc. Buongiorno, perdonatemi. Non sono più quello che vi ha rubato. Sono una persona diversa. Se vi ho rubato qualcosa, questo è il quadruplo. E il primo giorno, con la sua catena d'oro, il cellulare grande, i vestiti fashion, la macchina potente. Il secondo giorno, senza catena d'oro, senza l'orologio fashion, senza i vestiti buoni. Il terzo giorno, senza macchina. Il quarto giorno, senza casa. Il quinto giorno, con abiti prestati. Questa è la vita che è cambiata in Zaccheo. Dai tutto, dallo ai poveri e sei rubato dal quadruplo. È cambiato completamente il suo status. Questa è la vita di Zaccheo. E ogni volta che gli hanno chiesto perché, tutti hanno potuto ricordare che Gesù era andato a mangiare a casa sua. Come avevano detto gli altri, sì, Gesù era entrato a casa di un peccatore. Perché Gesù entra a casa nostra. Gesù vuole venire a casa nostra. Gesù non si vergogna. Gesù non ha schifo. Gesù vuole entrare a casa nostra così come la tua casa è. Non so come hai lasciato casa tua. Io non l'ho lasciata bene stamattina. Ma Gesù vuole venire. Incontrarmi nelle mie vulnerabilità. In quello che sono. In quello che sono stato. Cos'è la tua vulnerabilità? Cosa ha creato la tua vulnerabilità? Forse è un peccato, come Zaccheo. Forse era una vita di peccato, come Zaccheo. Forse la tua storia ha creato in te vulnerabilità. Forse le tue esperienze hanno creato in te vulnerabilità. Forse le tue dipendenze, forse i tuoi traumi. La bella notizia di oggi, Chiesa, e dobbiamo ricominciare da questo, è che Gesù prende le nostre vulnerabilità e le trasforma per la sua gloria. Gesù fa delle nostre vulnerabilità un territorio in cui Lui prende gloria. Vi ricordate? Zaccheo che bussa e che chiede perdono e che dà indietro. Cosa hanno fatto di Lui? Un uomo cambiato, un uomo che ha glorificato Dio. Vi ricordate il giovane ricco? Il giovane ricco, non sappiamo più niente di lui. Perché? Perché non è migliorato. Perché la vulnerabilità fa rima con migliorabilità. Se vuoi migliorare, se vuoi migliorare, se domani vuoi essere meglio di oggi e dopodomani ancora, allora non devi renderti più forte, non devi renderti più mascherato, non devi renderti più abile a mentire agli altri o a non far entrare gli altri a casa tua. Anzi, devi solo renderti più abile a far vedere a Lui, a far entrare a Lui, a dire a Dio, ma anche agli altri, anche agli altri. Fai entrare gli altri a casa tua. Fai entrare gli altri nella tua vulnerabilità. Oggi abbiamo questo rischio enorme, da oggi in poi per non sappiamo quanto tempo, dobbiamo concludere l'incontro e scappare via, perché non possiamo fare assembramento, che è proprio una cosa che ci sta antipatica a noi come Chiesa, perché ci piace stare insieme, vero? Però la Chiesa non finisce qui, perché ci sono i gruppi, perché in questi 3 mesi abbiamo imparato il potere della videochiamata, perché in questi 3 mesi abbiamo imparato il potere del messaggio, di dirci: per piacere prega per me, per piacere vieni a casa, sono solo. Bene, questo è il potere della Chiesa, questo è il potere del nostro Dio, che entra, che porta cambiamento e che ci avvicina a Lui e agli altri. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Fai delle tue vulnerabilità un posto di gloria per Dio. Fai delle tue vulnerabilità un posto non nascosto. Fai delle tue vulnerabilità un posto in cui Dio entra e cambia tutto. Dai accesso totale alle tue vulnerabilità a Dio, delle tue vulnerabilità a Dio. È l'unico, ascoltami bene, è l'unico che può trattarle al meglio di come meriti. Al meglio di come meriti. Amen. Vogliamo pregare, io voglio pregare proprio ora, chiudiamo i nostri occhi. Se sei qui e dici: mamma mia, è proprio per me questo, io voglio essere vulnerabile, voglio essere aperto, non voglio più nascondermi. Vuoi alzare la tua mano? Voglio pregare per te mentre la band entra. Vogliamo pregare. Amen. Amen. Vedo molte mani alzate. In questi 3 mesi non devono renderci più nascosti, non devono renderci più fintamente forti, devono renderci sensibili alla presenza di Dio. Gesù, tu conosci perfettamente il nostro cuore arreso a te, umile alla tua presenza. Gesù, io ti chiedo di prendere le nostre vulnerabilità e di farne esattamente quello che tu vuoi. Tu sei il migliore a trattare le nostre vulnerabilità e noi ci affidiamo con ogni fiducia a te, che sei il Dio onnipotente, pieno di grazia. Gesù, dove ci sono peccati, ti prego di spezzare questo dalla nostra vita. Ti prego, Signore Gesù, di dare vita eterna, di dare perdono. Nel tuo nome. Amen.